Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Anch'io credo che siano delle occasioni interessanti queste per discutere o perlomeno per cercare di dare una prospettiva diversa ad alcune questioni che in università generalmente si affrontano, anzi queste non si affrontano minimamente, però quando si affrontano in modo a volte un po' monodirezionale. Quando mi è stato proposto questo intervento, io sono un esperto di Messico, soprattutto della fase finale dell'Ottocento e del XX secolo, soprattutto ho studiato gli anni della rivoluzione, post-rivoluzione, porfiriato, però casualmente quest'anno mi è capitato da 2 anni, anzi di tornare indietro nel tempo, perché parlando di miti, quest'anno c'erano in Messico tutte le celebrazioni del Cinco de Mayo e 5 maggio. Che in Italia è sconosciuto, nessuno in Italia sa cosa sia il Cinco de Mayo, però il Cinco de Mayo è un po' un'alamo messicana, è il simbolo, è una battaglia in quel caso vinta dai messicani contro le forze francesi, il tentativo di Napoleone III di occupare il Messico e di Mettico, quello che poi porterà alla costruzione di un impero effimero con Massimiliano d'Asburgo, ex Granduca di Milano, fratello di Franz Josef, l'imperatore austriaco, che viene spostato come imperatore fantoccio per un triennio scarso fino a quando farà una bruttissima fine, fucilato. E curiosamente, studiando il Cinco de Mayo, mi è venuto in me, e leggendo il libro Alamo, mi è venuto in mente un parallelismo piuttosto significativo. Un parallelismo che si svolge sull'idea del mito della costruzione e anche della traslitterazione nel tempo degli eventi storici mitici. Il Cinque, per esempio, oggi è la grande festa commerciale della latinità negli Stati Uniti. Quando è stato organizzato per l'occasione delle celebrazioni un convegno a Puebla, che è la città vicina alla zona della battaglia, di fatto si erano inventate tutta una serie di visioni, letture istituzionali, ufficiali, mediatiche, pubbliche, per ricostruire l'idea mitica di questo fondamento del Messico repubblicano, in una fase che in qualche modo chiude la stagione che si apre con l'indipendenza texana e con tutta la questione della battaglia di Alamo, e che vede in mezzo la guerra tra gli Stati Uniti e il Messico, vede in mezzo questo tentativo di rottura della dottrina Monroe che Napoleone III mette in moto con l'accordo, con il sostegno di alcune potenze europee, e che in qualche modo ridefinisce questa periodizzazione storica che va dagli anni 20, l'inizio degli anni 20, l'indipendenza messicana, la dottrina Monroe e l'inizio di tutta una serie di ridefinizioni sui confini Messico-Stati Uniti, e che aggiunge un punto di svolta all'inizio degli anni 60, passando attraverso poi la guerra di secessione, la stagione dell'impero, cambiando di fatto le carte in tavola alla fine del decennio. Quindi sono alcuni decenni piuttosto concentrati in cui succedono tantissime cose. Considerate che in Messico in questo periodo passano più di 50 governi, 11 dei quali di Santa Anna, che ha questa predilezione a di fatto a essere presidente senza governare e a lasciare la presidenza in modo piuttosto repentino e anche turbolento. Ora, rileggendo queste cose mi sono venuto in mente che alcuni documenti che avevo studiato in archivio per presentare la mia relazione sul Cinco de Mayo mi avevano fatto tornare, senza che ci facessi caso, proprio alla stagione di Alamo, che nella storiografia messicana, come viene ben detto nel volume, non è certo un punto chiave, anzi tendenzialmente viene abbastanza rimossa e modificata, benché molti dei protagonisti di quella stagione siano stati poi nel tempo degli storici ufficiali istituzionali, tra virgolette, Bustamante, Mora, i grandi storici classici del Messico decimononico sono in qualche modo legati a queste vicende. Ora, quali sono questi fattori? Il primo fattore è che, studiando il Cinco de Mayo e ripensando a quello che era successo prima, emerge una figura cruciale che qui nel libro appare come un fantasma, viene sempre presentata come originale in italiano, che è Juan Nepomuceno Almonte. Almonte, che sarebbe stato poi il braccio destro, di fatto, per un periodo piuttosto decisivo, di Massimiliano d'Asburgo nella fase di costruzione di questo impero fantoccio in Messico, tentativo appunto di rompere la dottrina Monroe. Almonte è un personaggio, per esempio, su cui non esiste una grande storiografia, ma che nel discorso che veniva citato in precedenza di figure minori, che poi non necessariamente sono così minori, ma sono, si intrecciano nel tessuto ramificato, intricato, soprattutto quando si parla di storia messicana, che ha una sua tradizione barocca che continua nel tempo e che è particolarmente complessa da ricostruire, un personaggio che ha avuto un ruolo quasi sempre singolare dietro le quinte, ma che riemerge in molti dei passaggi chiave della storia messicana di quell'epoca, soprattutto nella storia delle relazioni tra Messico, Stati Uniti e Messico Europa, una sorta di triangolo complesso che si sta ridefinendo. E questo poi mi porterà a uno dei tre punti che brevissimamente volevo richiamarvi per lasciare poi spazio all'autore del volume. Almonte, nell'archivio, mentre stavo lavorando sui documenti del Cinco de Mayo, nell'archivio del Museo del Risorgimento di Roma, oltre a tutti i documenti delle relazioni tra i massoni di rito yorkino e scozzese messicano e la massoneria piemontese savoiarda, emerge una serie di documenti interessanti di Almonte, tra cui i rapporti tra Almonte e Massimo D'Azeglio Tapparelli. Perché dovete considerare che per comprendere la città di questa stagione, per contestualizzare Alamo dentro, al di là della dimensione anche minore della battaglia, una battaglia che alla fine ha impiegato pochi uomini, poi torneremo sulla questione del mito, per capire cosa significa Alamo bisogna contestualizzarlo nella stagione del tempo, gli anni 30 dell'Ottocento, il post esportazione della rivoluzione francese, i cambiamenti di questo passaggio tra quello che restava dell'ancien regime, delle vecchi processi indipendentisti, e un'Europa e un'America che si stavano ridefinendo. In questo senso Santa Anna è veramente un personaggio emblematico di passaggio tra i due. Leggendo il libro poi ritroverete una raffigurazione di questo pluripresidente messicano, che era prima veracruzano, come si dice, che è estremamente emblematica. Quella era l'Italia, per esempio, tutte queste vicende, giusto per darvi delle coordinate, avvengono mentre in Italia Leopardi sta giungendo al massimo della sua fame e sta per morire di colera. Il colera che si incontra qui è lo stesso ondata di colera globale nei processi di globalizzazione che studiano gli storici della medicina, che investe Napoli, Ancona, buona parte del centro-sud Italia, anche alcune valli del Piemonte, e che farà fuori diversi personaggi piuttosto significativi. È il periodo delle mie prigioni di Pellico, il periodo della giovane Europa mazziniana, è il periodo in cui si sta mettendo in moto una sorta di trasformazione anche in dimensione internazionalista del processo del risorgimento italiano. Quindi sono tutte dinamiche che non sono lontanissime, a parte la distanza geografica, dal punto di vista della costruzione culturale. Ora, i documenti di Almonte mi hanno poi fatto pensare ad altri documenti. Io, per studiare il Cinco de Mayo, avevo lavorato molto nell'archivio segreto vaticano. Nell'archivio segreto vaticano, che era importante per quella vicenda, perché la Santa Sede ha tutto un ruolo dietro le quinte per sostenere l'arrivo del progetto imperiale, l'idea era quella di fare una sorta di grande barriera cattolica all'avanzata protestante statunitense verso sud, protestante e modernista, e tra le altre cose, quindi, se negli anni 60 si puntasi fortemente su questo tentativo franco-europeo di recupero del Messico, tornando indietro mi ero imbattuto in un faldone che non avevo consultato perché non pensavo fosse interessante per il mio lavoro, ma che leggendo questo libro viene voglia di aprire e consultare, che è tutta l'attenzione con cui la Santa Sede segue la questione texana. Sì. Perché il Texas veniva visto sia per la questione del modello economico, dopo entreremo nella questione della schiavitù, che è uno dei perni centrali per tutto il processo dell'indipendenza del Texas, ma soprattutto come primo bastione cattolico, come un punto che in qualche modo bisognava mantenere cattolico a tutti i costi. Quindi che fosse messicano o che fosse indipendente texano doveva frenare l'avanzata. Quindi la Santa Sede mette in moto tutta una serie di processi, soprattutto anche grazie ai legami che aveva nella Louisiana. La Louisiana, che non dovete dimenticare, era di tradizione francese e spagnola, con una storia molto complessa, e che aveva permesso alla Santa Sede di mantenere ancora tanti rapporti, tanto che perfino all'epoca della rivoluzione messicana a New Orleans ci saranno punti d'appoggio, fino alla guerra cristera ci saranno punti d'appoggio a New Orleans della diplomazia segreta vaticana. e quindi agiva perché non ci fosse un'avanzata da nord. Tanto che quando il Texas diventa indipendente, la Santa Sede briga in mille maniere per evitare che venga assorbito dagli Stati Uniti, cosa che poi, come sapete, avverrà, e il Texas e la questione poi si ripresenterà nella guerra di secessione, perché di nuovo c'è l'idea di un accordo tra gli stati sudisti in prevalenza cattolici e la Santa Sede per frenare, c'è anche l'idea di un'alleanza che poi cadrà subito, che non si concretizzerà mai, tra la Francia napoleonica di Napoleone III e gli stati sudisti della Confederazione contro il Nord, col nuovo modello del British capitalism che sta costruendosi e sta cercando di fondersi con l'agricoltura di piantagione schiavistica del Sud. Ora, tutti questi passaggi vi fanno vedere come la storia fosse già globalizzata, intrecciata, piena di elementi che in qualche modo vedevano circolare idee, musiche, suoni, odori, oltre a, quindi, la dimensione anche della storia diplomatica e istituzionale. Ora io vorrei richiamarvi brevemente solo due passaggi, due e mezzo, e poi smetto di parlare. Il primo è che grazie a questo libro che riesce a narrare in modo molto affascinante una vicenda storica ottocentesca, che generalmente quando si studia sui saggi storici dei, non voglio inimicarmi i modernisti da contemporaneista, però a volte ha un approccio abbastanza molto accademico che difficilmente entra nella vitalità, nella quotidianità di alcuni passaggi, ci riporta subito alla mente due grandi questioni. La prima è quella appunto dello scontro tra due modelli statuali nazionali giovanissimi, che erano ancora in fasce. Il modello statunitense aveva qualche anno in più, però era un modello che si stava formando, e qua arriviamo poi anche alla questione del mito, perché Alamo diventerà così importante, perché Alamo diventerà una sorta di architrave della costruzione successiva del mito del West. Come ben ricostruito nel volume, David Crockett era già un mito vivente, per quello diventa così importante, non era un personaggio mitizzato post mortem. Questo è un fenomeno molto presente nella cultura statunitense. Se pensate anni dopo all'esperienza del Buffalo Bill Circus, era già un mito vivente che addirittura viene esportato dagli Stati Uniti per fare sorta di propaganda dell'American Way of Life, che nel frattempo si era consolidato. All'epoca di David Crockett, in qualche modo è emblematico il passaggio dell'incontro con Tocqueville, era molto significativo il passaggio di un mito vivente che in qualche modo viene proiettato già su questa questione texana, in cui in realtà i texani impegnati erano una minoranza, come viene ricostruito, la maggioranza delle persone che si occuparono non tanto della battaglia di Alamo in sé, ma di tutto il processo di spinta, poi non ancor più che dell'indipendenza, di spinta poi del Texas indipendente, Texas, che poi cambia la consonante e diventa Texas, verso l'espansionismo degli Stati Uniti, sono tutti coloni, personaggi che arrivano da altre aree, che arrivano dal Tennessee, che arrivano dal Kentucky, che arrivano in alcuni casi perfino da nord, e che portano questa propria cultura della frontiera, dell'emigrante, della nuova costruzione in corso, in divenire, del mito del West, a concretizzarsi in questa realtà. Quindi un mito che stava cominciando a costruirsi e che poi non casualmente passerà dal cinema, perché il cinema sarà il canale che nel XX secolo permetterà a questo mito di assumere nuove forme, nuova diffusione, velocità di circolazione, impatto simbolico eccetera eccetera nella società industriale americana. Questo mito si sta formando esattamente in questo momento, e Alamo diventa un architrave su cui poi si costruirà, dopo la presa degli Appalachi, tutto il mito della frontiera, del West, dello spostamento, che non è semplicemente un mito di costruzione dell'identità statunitense, ma un mito che poi sarà anche funzionale alla politica estera statunitense. Se noi proviamo ad analizzare nel lungo periodo le logiche della dottrina Monroe 1923, l'America agli americani, l'idea quindi di un nuovo modello di civiltà che si deve imporre, che in qualche modo trasla nella politica estera l'idea dei padri pellegrini, del man on the hill, della differenza, della rinascita, del mondo nuovo, eccetera, eccetera, ma lo fa poi concretamente con speculazioni terriere, conquiste tecnologiche e l'utilizzo della schiavitù, che non è certo un elemento secondario di tutta la vicenda, in questa fase una vera e propria architrave poi si può spostare a est, si può spostare a ovest, e da ovest poi si sposterà oltre la frontiera del Pacifico, e tutta la open door policy di fine Ottocento, della stagione dell'imperialismo tardo ottocentesco, che vede gli Stati Uniti geneticamente rifiutare l'idea della colonizzazione, però la open door policy in Cina, in Asia, in Estremo Oriente, passa da questi elementi. Quindi in questo senso Alamo diventa l'architrave di questa nuova identità del mito della frontiera, che all'epoca, negli anni 30, si stava appena accennando e costruendo, ma che negli anni successivi, soprattutto dopo la guerra di secessione, è già consolidato nel sistema genetico statunitense. E questa è una questione. Il Texas, tra l'altro, diventerà un elemento cruciale per tante vicende. Se noi ricostruiamo, è uscito recentemente un bel libro di uno storico, Bembo, sulla politica di Wilson nei confronti del Messico nella prima fase della rivoluzione messicana, e emerge il ruolo cruciale del Texas, non solo perché buona parte dei complotti extramessicani che vengono fatti durante tutta la prima fase rivoluzionaria partono da Texas e New Mexico, ma perché lì c'era ancora una sedimentazione di culture diverse, dei primi Tex-Mex, dei primi coloni Austin e famiglia, le prime colonie ideali, e di tutti quei coloni avventurieri, anche molto aggressivi, che si erano calati verso sud a partire dagli anni 30, che in qualche modo avevano creato questa sorta di realtà anomala, di frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, qualcosa che poi nel tempo sarebbe rimasto. Se pensiamo alla tradizione dei governatori recenti del Texas, in qualche modo abbiamo ancora un elemento piuttosto sui generis. Il Texas oggi è cruciale, insieme alla Florida e ad altri paesi, in tutta la vicenda della nuova destra repubblicana statunitense, per capire anche alcune delle dinamiche delle primarie repubblicane recenti e di alcune difficoltà interne al partito di Mitt Romney, bisogna comprendere la realtà e il peso di alcuni processi che si muovono tra Florida e Texas, quindi le relazioni con non più solo il Messico, ma tutto il mondo latino. Ultima cosa rapidissima e poi lascio la parola. La questione del mito l'abbiamo sfiorata, ma c'è anche la questione dei razzismi incrociati, che da un lato sono dei razzismi correlati alle dinamiche economiche della cultura statunitense, che in qualche modo entrano in contrasto con il modello della società criolla messicana. Ovviamente la violenza, l'uso servile della manodopera, questi sono anni vicini alla Guerras de Castas dello Yucatán, allo sterminio degli indigeni Otomi, la questione della repressione violentissima dei Tarahumara nell'area di Chihuahua, che era una sorta di cugini del sud del mondo Apache, eccetera eccetera. Ma dentro a tutte queste dinamiche, in cui il razzismo era fortemente presente anche in Messico, il rifiuto istituzionale di un sistema ancora ibrido in Messico, perché siamo nel pieno delle fasi di oscillazione della lotta tra federalisti e centralisti, che poi avrebbe portato solo negli anni 50 a un assestamento della situazione messicana, e poi le guerras de reforma, di fatto in questa fase mette in discussione in modo forte il modello schiavista, che invece era saldamente al centro di tutta la costruzione della politica del sud degli Stati Uniti. Nel libro è ben ricostruito il peso dello schiavismo attraverso figure collaterali ma emblematiche, come ad esempio quella di Jim Bowie o di altri personaggi, lo stesso Travis, eccetera eccetera, ma il discorso si allarga a una cultura dello schiavismo che era profondamente radicata e che era già correlata a una cultura di una sorta di dinamica offshore. Tutto il rapporto qui evocato con la pirateria, la FIT, il mondo sempre di New Orleans, quindi l'uso, la capacità di aggirare le leggi costruendo un sistema caribico, che oggi possiamo ritrovare non molto diverso nelle società offshore di buona parte dei Caraibi, nelle relazioni con una certa parte del sistema economico nordamericano e globale. Ma Quello che volevo richiamarvi riguardo a questi razzismi è che il razzismo che si sta sedimentando nel sud e che è necessario studiare a partire dagli anni 30 dell'Ottocento per capire alcuni fondamentalismi del sud degli Stati Uniti attuali, è un razzismo che si allarga dall'idea della reservation classica, il rifiuto degli indiani, quindi un melting pot della migrazione americana applicato in modo radicale nelle aree di che porterà appunto all'isolamento, alla segregazione, una politica segregazionista che dall'altro lato accetta la schiavitù afroamericana come pilastro della propria crescita economica, ma che comincia a trasformarsi verso dinamiche nuove. In un passaggio del libro si cita un punto che resta un po' tra le righe, ma che credo sia fondamentale, che il razzismo non è più solo verso gli indiani o verso i messicani, ma verso i mulatti e verso l'idea stessa del mestizaje, del meticciato. Se voi andate a rivedere i grandi miti che costruiscono il sud degli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, nel boom della dollar diplomacy, trovate che si applica esattamente questa cultura del rifiuto del meticcio. Se avete in mente un film classico, Birth of a Nation di Griffith, che viene fatto proiettare dal presidente Wilson alla Casa Bianca, Wilson, pur essendo il grande presidente del diritto internazionale, era un profondamente sudista, legato a una tradizione religiosa protestante molto radicata, e Griffith era un amico di famiglia. Se voi andate a rivedere questo film, che è un po' il caposaldo della costruzione della storia dell'identità nazionale, ci sono anche degli echi di Alamo dentro al film, come punto chiave dell'identità nazionale raccontata al cinema, trovate che i cattivissimi del film non sono messicani, non sono afroamericani, non sono indiani, ma sono meticci. E il meticciato in quel tipo di cultura e di società del melting pot estremizzato è forse il nemico più pericoloso. E è un qualcosa, questo nuovo meticciato, che è dentro al discorso messicano dell'epoca, perché Santana, qua siamo ancora in piena società crioia, ma di lì a pochi anni sarà la società juarista, che è il mito del nuovo mestizaje, quindi l'aquila sul nopal, la nuova ricostruzione mitica del Messico, che si fonderà su un meticciato ideale, un mondo indigeno idealizzato, perché l'indio reale in realtà vive una situazione sociale terribile, ma l'indio del passato viene idealizzato, e quindi abbiamo due modelli che si stanno conformando idealmente, che sono esattamente agli antipodi, tanto da un punto di vista delle dinamiche economiche e geopolitiche, quanto dal punto di vista culturale. Ovviamente il sistema è asimmetrico, perché gli Stati Uniti stanno crescendo notevolmente, il Messico in una fase di forte difficoltà, soprattutto nel periodo di Santana la gestione dell'economia è assolutamente nefasta, e quindi poi ci sarà tutta un'evoluzione asimmetrica dei rapporti. Ma questa differenza di modelli, fino credo alla lunga stagione rivoluzionaria e post-rivoluzionaria, in qualche modo manterrà una dialettica piuttosto forte. E qui chiudo e lascio la parola all'autore del libro, che ringrazio per aver scritto un bel libro.